quedo asilo. Chiedo asilo. Che spavento. Cosa? Mi sono spaventato, chiedo asilo. Ma di cosa? Cos'è brasiliano questo? Ho lavorato a Radio Bamboleo tutta la vita. Ma cos'è genovese questo? Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Capo. E un saluto da Drago. Ciao, allora, Drago, come stai? Ciao Capo, oggi dovrebbe essere il giorno decisivo. Ma qui all'asilo non siamo al posto giusto per confermarvi se è tutto vero. È il giorno decisivo o no? Ma giorno decisivo per cosa? Per chi, Drago? Per cos'è? Me. Non tenermi sulle spine. Per te, per me, per tutti. Sono 20 giorni che Mario Monti dice il 5 dicembre si sblocca tutto. Quindi le manovre finanziarie al buio, cominciate da Tremonti, non sono ancora finite, continuano. Ma sai che forse secondo me è divertente? Cosa? Giocare alle manovre finanziarie al buio. Sì, un gioco adesso. Guarda che se non fosse divertente avrebbero già finito. Magari fosse come dici tu, invece la verità è che ogni volta che fanno manovra si accorgono, mentre la fanno, che avrebbero dovuto fare di più. Quindi tornano indietro. Volante, e ricominciano, capito? Il gesto del avanti volante indietro per parcheggiare, Drago. Mentre giri il volante da una parte, tu ti accorgi che avresti dovuto cominciare a girarlo un po' prima. Bravo, se non quindi ritorni di nuovo nella posizione originaria, poi ci riprovi. Ecco, e da agosto a dicembre non ci sono ancora riusciti. Saranno parcheggiatori diversi. Sono due parcheggiatori diversi. Cioè, certo. Prima Tremonti, adesso Monti. Poi sono anziani, dovrebbero rifare l'esame di guida. Che bella canzone, giocosa e lieta, che ci offre lo spunto per ricordarvi a tutti l'appuntamento del 15 dicembre qui all'asilo Stoppani, che per l'occasione sarà mascherato da sede di Radio 24 a Milano in via Monterosa numero 91. Babbo Natale esiste. È il titolo assolutamente fuorviante dello show. Lo show che avrà come protagonisti Cappa e Drago. Sì, però esiste il bambino Alberto, forse Gildo, forse e Fabio Corio Calabro di sicuro. Allora prenotate a chiedoasilo@radio24.it, specificate che scrivete per la recita di Natale, che se scrivete un'altra cosa entrate lo stesso, però va bene. E mi raccomando, mandateci le vostre filastrocche, dobbiamo poi leggerle sul palco, quindi bastano 4 versi, possibilmente in rima baciata e con tema natalizio. E un'altra cosa, i regali al bambino Alberto, parliamone, perché sennò poi scoppia il caso. Il bambino Alberto si aspetta davvero che il pubblico gli porti dei regali, Drago. Ha pubblicato le liste di regali su Facebook. È convinto di battere il record di regali di Natale ricevuti da un bambino. Guinness dei primati. Insomma, non prendete sotto gamba questo invito, perché sono i regali, anche piccole cose. Però portate. Anche quindi, delle siringhe, quindi, non so. Insomma, è più che un invito, però è un ordine. Portate i regali al bambino Alberto. Soprattutto siringhe. No, perché? Siringhe. E ora, bambini, ricreazione. Uè, vuoi due spirongoni? Oh, bambino Alberto! Allora, per i regali è tutto a posto. Ma è tutto a posto, non lo so. Noi continuiamo a dirlo che tu vuoi i regali, che è una cosa seria, eccetera. Però bisogna vedere se la gente si fa convincere. Vabbè, ma sono un bambino, no? C'è la festa di Natale? Non è che ci vuole molto per capire che il bambino vuole il regalo di Natale. Il bambino Alberto. E che sono io. Vabbè, ma c'è la crisi, i regali di Natale quest'anno saranno molto meno dell'anno scorso. Io ho detto anche cose piccole. Beh, ma meno dell'anno scorso. Io l'anno scorso ho ricevuto il regalo solo dai miei genitori. Sì. E quindi uno meno uno è uguale a zero. Oh, sì, non va matematica, mica bene. Sì. Però c'è anche Meno di zero, che è una canzone di Costello, no? Sì, è anche un libro di Ellis. Costello, ma cosa dite? No, Ellis Costello. Ellis è uguale, sì. Invece di stare qua a perdere tempo, perché non andate a convincere tutti quanti che i regali del bambino Alberto si devono fare veramente? Sì, ma io... senza regalo non si può neanche accedere all'area di vita allo spettacolo. Beh, quello non possiamo dire. No, dai, allora, voi dite così, no? E così poi vedrai che poi tutti porteranno un pacchettino. Lo so, però non si può. Perché io mi accontento anche di poco, eh. Beh, dalle liste che hai messo su Facebook non si direbbe che ti accontenti di poco. Vabbè, ma quelli sono solo dei wishful thinking. Wishful thinking. Beh, io sto andando all'inglese. Sì. Però non ce l'ho ancora fluente, no? Sì, fluente. Ma che parole uso? Ma sa che disimpari l'italiano invece di imparare l'inglese. Senti, comunque, fluente. Albertino, una volta che riceverai tantissimi pacchi regalo, li devi dividere con qualcuno, no? Con chi li dividerai? Cosa? I pacchi regalo. I regali, cosa vuoi sapere? No, con chi li dividi? Beh, in che senso? Cioè, non capisco, arrivano i regali. Vedi, fa ostruzionismo. Questo è l'ostruzionismo, l'ha imparato. Vedi? Ma cosa pronto? Allora, aspettate che ho un problema in cuffia. Ma che cuffia? Ma cosa dici? Ascolta, sei colpi i regali. Gush! Cosa dici? Gush, chi è morta? No, non sento più, devo interrompere. Senti, allora, ti arrivano i pacchi regalo. Perché gli chiedi magari anche delle piccole cose, ne arrivano tanti, li devi condividere, allora, no, con gli altri bambini. Io direi che li può dividere con tutti i bambini presenti allo spettacolo. Però dividere, perché non capisco, cioè rompe le macchine in due. Li condivide, condivide, arrivano 100 regali, li condividi. Ma condivide vuol dire che lo stesso regalo è contemporaneamente Facebook, tuo e di un altro. Condividi. E come fai a giocare? Non lo so, vai a casa di uno, dell'altro, si creano amicizie, reti di amicizie. Allora, se ci sono 100 bambini, ognuno avrà un regalo, quello che voglio dire. Facciamo così, se ci sono 100 regali, tutto a caso, dato per certo 100 regali. No, ma sì, c'è, magari tutto c'è a caso. 90 li prendo io. E poi 10, e 10 vanno a Gildo. E perché tutti dicono Gildo che simpatico. Gildo vuole 10 regali. Sì, ma gli altri bambini. Poi dopo lui, tanto lui riceve la roba. Poi dopo dove. Poi finisco la mia cameretta. Cosa? E 10 regali ti arrivano. 10 regali! E tu arrivi da me. Perché dopo metti che arrivate il portiere, non c'è. Fa, qui non c'è nessun Gildo. Parla con Gildo, con chi parla? Ma... allora li ho fatti recapitare a casa mia. E che sono 100 regali. È un egoista. Poi dopo le befane, perché prima c'è il affarato, lo zio in ospedale, le feste in famiglia, non c'ho tempo. Poi dopo, dopo le epifanie porti tu i 10 regali. Li scelgo proprio fra i 100. Scelgo quelli proprio. 100 regali! 100 regali miei, no? E scelgo i 10 tuoi. E scelgo a misura tua, no? 10 tuoi! 10 i tuoi. Io 100 regali arrivano a casa mia. 100 regali a casa mia! No, a casa tua no, perché non c'è il portiere. Se qui va sempre lì a Ponte di Legno fare, e non c'è. Invece da me c'è sempre full hour. Quindi 100 regali arrivano a casa mia. Full hour! 100 regali a casa mia! No, anche il full hour. Ecco, il full hour. Full hour a tua mamma. Se vuoi fare un regalo a tua mamma. A Ponte di Legno! Sì, fai a Ponte di Legno. Vedi, allora motivo di più. 100 regali a casa mia. A Ponte di Legno! No, io abito a Milano. E poi ti leggo, è fermo posto. E ora, bambini, e tutti a casa. Allora, Cappa, dai, per la natività dobbiamo trovare una ragazza che fa la Madonna. La Madonna. È la Madonna, certo, bisogna trovare una che dica sempre fa freddo, molto freddo. Ma non è fa freddo. Sono stanca, sono molto stanca. Battuta, devo partorire. Ma non è devo partorire. Ma non è così, la battuta è sono stanca, sono molto stanca. Mica vuoi che dica sempre solo sono stanca, sono molto stanca. Ma poi mica facciamo il presepio, come dai. No? Ma no, ma dai. Ma perché Natale è Natale, scusa, Natale significa natività. Cos'altro vuoi rappresentare? Ma cioè, qualcosa di più originale, cioè tutti gli asili del mondo tipo fanno cosa natività. Vuoi fare di originale a Natale? Ma non lo so, Matrix. Ma no, ma scusa se insisto, però Matrix a Pasqua chi con Vinci, quello lì dell'ex CNN. No, ma no, Matrix quello lì, Matrix il film con Neo. Cioè, ma è morto già Keanu Reeves, non fa, come non, è morto? Ma non fa più niente, non lo so, ha smesso di far tutto. Comunque vabbè, scusa se insisto, capa, però ma a Pasqua non vorrei mica mettere in scena il presepio. E cosa vuoi mettere in scena? Scusa, Natale è Natale, ma significa vabbè, natività, ma cos'altro vuoi? Gli asili del mondo fanno la natività, facciamo qualcosa fare di più originale, tipo? Ma non lo so, ci pensiamo, no? Vabbè, allora, scusa se insisto, dai, a Pasqua si celebrano la Passione, la morte e la resurrezione di Gesù e si mette in scena la Via Crucis. Sì, però, a Natale si celebra la nascita di Gesù e si mette in scena la Natività con la grotta di Betlemme, il bue, l'asinello e tutto quanto. Sì, scusa, adesso trovami un bue, un asino disposti a venire qui sul palco, tra l'altro senza un contratto, non c'è l'assicurazione. Ma qui c'è la fila qua fuori. Che poi a Pasqua non è vero che si fa. Come no? A Pasqua si fa anche il coniglio pasquale, la caccia alle perché uova. Tu sei il solito pagano che viene non so da dove. Qui si fa la Via Crucis e poi voglio dire, qui c'è la fila fuori di asini e buoi che salirebbero sul palco anche gratis, quindi questo è vero, soprattutto asini. Di asini sul palco ce ne saranno già troppe, Drago, non vogliamo mettere un altro? Ma chiamiamo, non so, chiediamo a Carmelo Lauricelli. Magari lui. I am a poor boy, a little donkey, I am a poor boy, a little donkey, and I go I go a little donkey. Allora tutti gli asini in ascolto, mi raccomando, scrivete a chiedasilo@radio24.it per la recita, ma anche per, non so, commentare questa performance di Drago. Si spiega da solo.